בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Eccoci qua il primo mercoledì di dicembre, oggi è il 5 dicembre 2012, buonasera da Agostino Spolaore e buonasera come sempre dal consueto compagno, cioè Maurizio, ciao! Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ben ritrovato anche a te. Noi anche a te, grazie. Ci ritroviamo sempre. Sì, saremo qui anche domani. Coppia fedele, una coppia fedele. Poi questa è una settimana che ci vedremo spessissimo io e te. Anzi, ma è bello full. Così, perché la musica porta a questo, porta ai concerti, porta all'esibizione, è una cosa molto bella. Certo. Allora, questa sera abbiamo una telefonica fino alle 21.50, 21.45 più o meno, insomma, poi vedremo il tempo. E poi ci sarà alle 22 la diretta live, come di consueto, il mercoledì con Rockwave e con gli Evenoir. Sì, stasera abbiamo ospite graditissimo Gianluca, quindi... Con appunto Gianluca Merlin che è venuto a farci compagnia e anche a darci una mano. Però prima abbiamo questa presentazione di questo gruppo. Maurizio, ce ne vuoi parlare te? Sì, Kemako. Buonasera a Roberto. A Roberto Re, il bassista, la parte ritmica, una delle parti ritmiche della band. Come stai, Roberto? Buonasera, Maurizio. Roberto, buonasera, mi senti? Agostino. Mi sento. Roberto, mi senti? Roberto? Mi sento. Perfetto. Ok, ci siamo. Benissimo. Buonasera Agostino, buonasera Maurizio. Grazie, Roberto. Buonasera a tutti. Benissimo. E Roberto, assieme a Gianfranco Frank Scala e assieme a Stefano Bertolotti, nel 1993 c'è stata l'idea di fare questo band, vero Roberto? Allora, la storia è un po' più lunga. Nel 1993 è stato l'anno in cui ci siamo conosciuti io e Stefano, il batterista, e da allora in varie situazioni abbiamo molto spesso suonato insieme tutti questi anni. Poi nel 2004 siamo entrati nei Chicken Mambo di Fabrizio Poggi. E sempre il blues che gira intorno, eh? Sì, è un... Sì, assolutamente. È una band di blues molto affermata, con cui abbiamo fatto diverse esperienze in Italia, in Europa e anche successivamente un tour in Texas. Gianfranco è, o meglio French, perché chiamiamolo French, abbiamo come il suo diminutivo, French. Esatto, French è entrato circa 4 anni dopo e... Quindi con lui abbiamo condiviso 4 anni ancora di esperienza con i Chicken Mambo. Nel frattempo l'idea è nata da French, di Kemako, praticamente era il sogno nel cassetto che aveva durante tutta la sua carriera chitarristica, aveva scritto dei pezzi e li aveva sempre tenuti da parte e un anno e mezzo fa circa ci ha proposto di trasformarli in un progetto puramente discografico. Sì. All'inizio l'idea era questa. E certo. Quindi nel maggio dell'anno scorso, quindi del 2011, abbiamo iniziato a registrare. Poi avete partecipato anche Marcello Milanese, che è nato sulla riva destra del Tanaro, ma probabilmente solo perché non vi erano ospedali sufficienti nel Mississippi. Sì, è vero. Allora, quello è il motivo. Sì, nell'estate del 73, chiaramente. Marcello credo che sia uno dei musicisti italiani più americano che sì, assolutamente americano al 100%, anche se anche proprio nella vita e come modo di comportarsi, certo. È una persona molto particolare, eccezionale, un grande amico. È entrato, noi ci conoscevamo da tanti anni, ma non avevamo mai suonato insieme. È entrato nel progetto discografico verso la fine e ha cantato 2 canzoni. Sì. Voi sapete, adesso dovremmo dirlo a tutti, certo, che questo disco, diciamo, è un po' anomalo per la mancanza di un unico cantante, no? Ci sono più cantanti, soprattutto ragazze, molto, molto interessante questo. Sì, ci sono... Sono molto vocaliste al femminile. Sì, ci sono 7 voci differenti, di cui 3 del Texas, 1 dell'Iowa e 3 italiani. Esattamente, bello, molto, molto interessante come idea, decisamente. Poi avete suonato con grande soddisfazione, come scrive giustamente nelle note Jimmy Ragazzon, con gente come Guy Davis, Flaco Jimenez soprattutto, Eric Bid, quindi qualcosa di molto interessante anche dal punto di vista della soddisfazione di suonare con questi grandi personaggi. Sì, sì, nella nostra, diciamo, avventura musicale abbiamo avuto queste fortune di accompagnare alcuni musicisti che sono, diciamo, delle star della musica americana, magari non conosciutissime in Italia a livello commerciale, però Flaco Jimenez. Flaco Jimenez è conosciuto anche a livello commerciale, secondo me. Ha suonato con i Rolling Stones. Appunto, appunto. Quindi è andato oltre al discorso dell'elitario, anche se elitario è una brutta parola, francamente. Sì, sì. E quindi in tutta questa nostra esperienza passata abbiamo raccolto, diciamo, molte amicizie, abbiamo collezionato molte amicizie, soprattutto all'estero e soprattutto in Texas durante il tour del 2010. E quindi queste amicizie hanno contribuito non da poco alla stesura di questo primo disco vostro, secondo me. È stato fondamentale, assolutamente fondamentale, perché si respira l'aria del Texas, senso positivo secondo me, non negativo, assolutamente. Guarda, allora, noi abbiamo amato molto e amiamo molto il Texas, le regioni che abbiamo visitato, la musica là è nell'aria ovunque. È sempre nell'aria, sicuramente. Sempre, sì, sì, guarda, quando atterri all'aeroporto di Austin... Nella diffusione, nella musica diffusa nei saloni, senti blues, country, folk, e ci sono statue di chitarra e foto di musicisti nelle sale di attesa dell'aeroporto, cioè cose che non sono proprio così di tutti i giorni, di tutti i giorni, ecco. Esattamente. E quindi poi abbiamo avuto l'occasione di avere proprio le voci in studio da noi, alcune di queste voci, certo. Allora, cosa dici? Le vogliamo sentire? Sì, Roberto, sì, giustamente, come dice Agostino, iniziamo ad aprire la nostra finestra. Io ho cominciato con il pezzo iniziale, Red Diamond Train. Roberto, ne vuoi parlare un bel pezzo con una voce femminile, ancora una voce femminile di un certo peso? Allora, il pezzo è cantato da una voce maschile, però c'è anche Shonko. Sì, hai ragione. Shonko, ma c'è anche Annie Action, però, che fa la background. Sì, Shen e Annie sono una coppia di Fredericksburg, sono molto particolari, hanno una voce bellissima, una voce perché è una coppia che è una coppia reale anche nella vita, certo. Due bravissime persone e hanno un loro progetto che si chiama Shenny, cioè dalla fusione dei loro due nomi, e sono stati in tour in Europa nel giugno dello scorso anno e sono venuti a trovarci e hanno cantato questa canzone e anche un'altra dove la voce principale è quella di Annie. Questo pezzo apre il disco. Lo apre bene, c'è anche un video, mi pare, vero? C'è anche un videoclip girato da Francesco Paladino, che è un regista di Piacenza che ci aveva anche già seguito in Texas. E questo brano, come quasi tutti quelli del disco, tranne due, la musica è di French e i testi sono scritti da Gianni Rava. Sì, che ha scritto circa 7-8 pezzi del disco, vero? Sì, sì, sì, ha scritto tutti i pezzi tranne la cover di George Harrison e il pezzo di The Ocean Song di Drake Paul. Allora adesso cosa dici? Roberto, lo sentiamo, un pezzo molto bello che apre benissimo l'album, dà sempre una certa immagine, un certo suono, immediatamente coincide al suono vostro. Ok, sentiamolo assieme. Grazie. You might die drunk in a car crash, like a joker full of cocaine. Don't let the chance pass you by when you ride on the Red Diamond Train. See that my first name is Trouble. If you look at me, it's not hard to tell. The reason why even the devil cares about me so very well. Riding on the diamond, riding on the Red Diamond Train. You got to book the ticket. Way down in hell, you got to pay in cash to the devil's left hand. Riding on the diamond, riding on the red diamond train. You might find me in the desert, or covered with mud and hole. But eventually drinking martinis by a pool with the money I stole. Though I like long-legged girls, cuties with big Bambi eyes, I just love to break their hearts with lots of my disgusting lies. Riding on the diamond, riding on the red diamond train. You got to book the ticket. Way down in hell, you got to pay in cash to the devil's left hand. Riding on the diamond, riding on the red diamond train. Got to pay in cash to the devil's left hand. Riding on the diamond, riding on the red diamond train. On the diamond, the red diamond train. Red diamond train. Riding the diamond, diamond, diamond train. Red diamond. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, Blue Radio Veneto con Agostino, ma soprattutto con Maurizio Calzavara. Però prima di continuare la nostra chiacchierata telefonica con Roberto, appunto, dei Ciamaco, vi ricordo le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, e poi ancora il nostro sito www.blueradioveneto.it. Lì ci potete ascoltare tranquillamente 24 ore su 24 in diretta, in streaming. Basta semplicemente andando nella home page in alto a sinistra, cliccando su Ascolta la radio, sentirete appunto la nostra emittente 24 ore su 24. Poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blue Radio Veneto, una, l'altra è Blue Radio Veneto, gestita, Blue Radio Veneto Rock Wave, meglio dire, gestita dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco, che organizza quasi tutti i live, come quello di questa sera delle 22, ma anche come questa telefonica che state ascoltando tra poco ancora con Roberto. Io devo fare subito una domanda a te, Roberto, consentimi la mia curiosità: da cosa deriva questo nome Ciamaco? Allora, French, che come avete capito e ho già detto è il padre del progetto, è un grande appassionato di fumetti, e Ciamaco è il numero 5 di una serie, è il titolo del numero 5 di una serie di un fumetto italiano che è Ken Parker, che penso che molti conoscano, di adesso non mi ricordo l'autore. Comunque è un fumetto, una serie molto particolare, accattivante, bei disegni, una sceneggiatura quasi da film, molto bello. Era un tiratore infallibile, giusto? Allora, non usava le armi se non per difesa, c'è tutta una storia. È un personaggio particolare, Ken Parker. In questo episodio perde la memoria a causa di un colpo ricevuto e viene raccolto da una tribù Sioux, e che gli danno questo nome Cemaco, il cui significato è colui che non ricorda. Quindi hanno un po' scoppiazzato da Tex Willer, visto che è Sergio Bonelli l'editore. No, infatti è di Bonelli, sì, infatti sempre le edizioni Bonelli, certo. Bene. Ok, mi sono innamorato della voce di Annie e mi sono scordato, caro Roberto, che non è la protagonista Annie alla voce, però è il suo compagno, vabbè, in Red Diamond Train, per quello ho confuso il discorso. In ogni caso, Alex qui di Evan One, musicista che verrà a suonare fra qualche minuto, mi ha detto giustamente, è un blues dei Robert Jones attualizzato. Che ne pensi, Roberto? Dunque... In questo pezzo, musica, parlo di questo pezzo. Questo pezzo sicuramente è uno dei pezzi che ha più radici, diciamo. Quelle profonde di Robert Johnson, praticamente. Esatto, quello più tradizionale. Esattamente. Blues, per quanto la linea armonica si discosti leggermente da quella del blues. Sì, certo. Comunque è inevitabile. Noi principalmente veniamo da lì, almeno. Per quello che riguarda me e Stefano, negli ultimi 10 anni, poi arriviamo da esperienze differenti, mentre French è proprio, diciamo, uno specialista appassionato di blues e di musica americana. Sì, perché lui suona, mi pare, il banjo e anche il dobro, sì, in questo pezzo. Sì, sì, sì. Tu suoni il basso, e il basso era un elemento molto importante, fondamentale per tutto il blues, o vicino al blues, possiamo dirlo apertamente. Mi fai parlare dei miei figli, praticamente, nel senso, il basso va bene, cioè potrei dire è uno strumento molto importante, certo lo suono, ma non è uno strumento magari un pochettino trascurato a livello, diciamo, di visibilità. Noi non siamo dei frontman, noi bassisti. Siete indietro, dici? Siamo dietro. State dietro, ma il bassista dà... che ha tutto quanto, tutti i gruppi rock fondamentali, senza il bassista non sarebbero i gruppi rock, c'è poco da fare. Sì, si può citare, possiamo citare i Cream, tanto per dire un nome altisonante, qualcosa. Sì, ma anche andando fuori, Sting, appunto, è lo stesso McCartney, è un bassista. McCartney per me è un genio, cioè ha creato delle linee di basso straordinarie, pur non avendo una tecnica sopraffina, no? Però è proprio la genialità che si distingue dalla tecnica, quindi anche ce ne sono tanti di esempi. Il basso, se pensi bene, è l'unico strumento armonico nella sezione ritmica, cioè è vero, giusto. È quello che collega la batteria con gli altri strumenti. Certo, assolutamente percussivo, quando non c'è la batteria il basso fa la batteria, praticamente. Chiaramente. E una cosa che ho letto, sono molto soddisfatto di questo che ho letto, il discorso che voi amate suonare dal vivo, sempre, continuamente suonare. Sì. È una sì. cosa bellissima questa. Guarda, è una cosa che pensavo... una mezz'oretta fa, prima che mi chiamassi, sì. Noi proviamo veramente un piacere fisico e spirituale a salire sul palco, e sono tantissimi anni che non abbiamo sperimentato un momento di disagio quando eravamo sul palco. Bello, noi ridiamo da dentro, abbiamo il piacere quando mi giro e guardo Stefano, quando facciamo un passaggino un po' sincopato, ma lo facciamo insieme, vabbè, suoniamo da 19 anni insieme, quindi, quindi avete già l'ok immediato. E quel risolino, quel sorriso anche fatto solo con gli occhi, nel momento in cui fai una bella cosa, che ti rendi conto che è bella, e quello è un piacere insostituibile. Certo, certo. Andiamo al secondo pezzo che abbiamo scelto io ed Agostino, Maintenance Free, e qui finalmente c'è una voce femminile italiana di Angelica De Paoli, che è bellissima. Angelica è Angelica come il suo nome, esatto, come il suo nome, no, in nomen omen, veramente, ha una voce eccezionale, ha veramente interpretato questi pezzi. L'ha colorati, posso dire così, Roberto? Sì, sì, sì, perché ha molta tecnica, ma anche una pulizia, un timbro eccezionale. Ha prestato la voce, diciamo, a questo genere che non è il suo, perché lei è una cantante di jazz e tipicamente di bossa, di musica latina, di Latin jazz, però accidenti, cioè ha centrato l'obiettivo, secondo me. Benissimo, adesso sentiamo il pezzo che diremo molto molto interessante, molto articolato, okay. Poi la voce di Angelica, come hai detto giustamente te Roberto, è Angelica in tutti, sì, i sensi. There's a road full of rocks to my heart, while the guys are coming home in their cars, and I wish someone stops by my doorstep and get down with a home, a lot of love. So let life be. Everybody, nothing runs forever. Everybody, nothing's maintenance free. Looks like we're going through stormy weather. So lay back and just let life. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. 21-28 Agostino, ma soprattutto, come dicevo prima, Maurizio, ma soprattutto ancora questo rappresentante dei Ciamaco che è qui con noi telefonicamente, ma magari la prossima volta ci verrai a trovare di persona, vero Roberto? Volentieri, verremmo volentieri. Con tutta la band. Con tutta la band, magari in occasione di qualche data dalle vostre parti. Certo. Guarda che le porte sono aperte. Sono sempre aperte, Roberto, le porte. Per fare un live, come tu hai detto, suonare dal vivo, suonare assieme è una cosa meravigliosa. E qui abbiamo fatto l'anno scorso 170 concerti, questa sera, quest'anno, arriveremo a 200, quindi tutti live, suonare dal vivo è una cosa meravigliosa, c'è proprio il coinvolgimento totale, anche se siamo in una radio, c'è sempre un feeling fra gli ascoltatori e chi sta suonando sicuramente. Allora... ti confermo la nostra disponibilità, verremo al più presto, cerchiamo di organizzarci. Ti ringrazio. In ogni caso, parlando di questo pezzo, è un pezzo che odora di blues, ma un blues che in una certa maniera, e grazie alla voce di Angelica, dà un certo tono, un certo modus vivendi al pezzo. Allora, io vi ringrazio per averlo scelto, è uno dei miei preferiti. Ma a parte preferiti, è uno di quelli che suono più volentieri, che suoniamo più volentieri, in particolare io adesso ci sono qua, io parlo per me, perché ha una struttura un po' particolare, ha questo ipnotico, sì. inizio ipnotico ostinato che non cambia mai, che sembra non cambiare mai, no? E invece poi ha un crescendo e un'apertura sul finale che ci trasporta, noi che siamo sul palco a suonarlo, almeno a me, cioè alla fine io mi trovo che mi metto a urlare, ma veramente, insieme al cantante, perché mi prende proprio, è proprio un pezzo che mi piace. Poi c'è anche il piano di Riccardo, sì. Maccabruni, dà un certo tono alle cose. Sì, Riccardo è il pianista dei Mandolin Brothers, un altro gruppo importante, storica in Italia, sì, della nostra zona, perché sono di Voghera, ma è un gruppo che ha 30 anni di storia, mentre Ciamaco come nome ha solo un anno di storia, quindi averlo avuto ospite lui e anche il cantante e creatore fondatore dei Mandolin, Jimmy Ragazzon, che ha scritto una bellissima recensione del vostro disco, tra parentesi. Sì, è un amico, è una brava persona ed è un grandissimo musicista e artista. Come mai da queste zone il blues è sempre stato forte in Italia? Perché secondo te c'è un motivo? La pianura padana dalle nostre parti, al di là della nebbia, che può portare anche quello, secondo me, può favorire l'amore per il blues, non so, no? anche in certe parti degli Stati Uniti dove c'è il blues c'è la nebbia, però insomma. Sì, io sono convinto di questo, cioè non credo che siamo i primi a dirlo. C'è un'affinità geografica nella morfologia del paesaggio che sicuramente favorisce queste affinità poi musicali. Anche la foto di copertina. Sì, è vero. Dove l'avete fatta questa qua? La foto di copertina è fatta nell'Appennino Piacentino. Ah, perfetto. In un bosco all'incirca. Pochi chilometri, sì, un bosco di castagne e di querce, a pochi chilometri. Dalla provincia di Pavia. È un po' questo qua è un po', diciamo, il leitmotiv di tutto il progetto. Mm-hmm. Le storie, i testi scritti da Gianni Rava, che appunto ha scritto quasi tutti i testi, almeno tutti i testi dei brani originali, sono storie nostre, cioè sono storie della campagna pavese, della provincia, sono storie nate qui, sono considerazioni nate proprio qua, sono pensieri che sono entrati in Gianni e in French, perché spesso scrivono comunque anche i testi in collaborazione. French dà l'idea, racconta qualcosa a Gianni e Gianni dopo un giorno ha scritto su un tovagliolo di un ristorante, su un biglietto di un treno, su quello, il testo ed è perfetto. E sono tutte storie nostre qua, nate qui. Bene, citiamo, oltre a voi tre, adesso la formazione ufficiale, e chi ha collaborato con voi nella stesura del disco, al di là delle voci? Ah, beh, possiamo anche citare le cantanti, le voci femminili, perché no? Allora, il progetto è stato gestito da noi tre, da French in particolare, che ne è il produttore artistico, io e Teto, Teto sarebbe Stefano. Stefano, esatto, batterista e bassista. Sì, io e Teto abbiamo partecipato per tutti gli arrangiamenti, Stefano in particolare gestisce lo studio Ultrasound Records e l'etichetta discografica Ultrasound Records, che ha prodotto poi e pubblicato il CD. Le altre persone hanno collaborato, diciamo, partecipando proprio a livello amichevolmente artistico. Amichevolmente a livello artistico, certo. Ognuno col proprio strumento. Ce ne sono tantissimi, se vuoi io li cito tutti volentieri, va bene. Comunque le voci, abbiamo detto Shen, che abbiamo sentito prima, Shen Cowart, Annie Acton, Angelica De Paoli invece dall'Italia, Debbie Walton, che adesso sentiremo. Debbie Walton, poi ne parliamo di, certo. Debbie, perché Debbie è un capitolo molto importante nella nostra storia. E poi c'è Jimmy Ragazzon, che, certo, ho già citato prima. E Marcello Milanese, ovviamente. Ovviamente. E poi ci sono anche gli altri musicisti. Sempre dai Mandolin Brothers c'è ancora Paolo Canivari. I Mandolin Brothers sono nostri amici fraterni, quindi Paolo Canivari, che ha suonato la National, il Dobro. Certo. E poi c'è Fabio Bonmarito all'armonica e Alexander von Braunul sempre all'armonica. Poi adesso dovrei vederli tutti. Sì, ne hai citati parecchi quando leggevo sul libretto. Sì, c'è quasi Micio tutti. Fassino, scusami, esatto, quello, sì. Micio Fassino, nostro vecchio compagno nei Chicken Mambo, assolutamente. Una volta si chiamava, non so se sei d'accordo, una comune musicale. Può darsi che potremmo chiamarla un'altra volta una comune musicale nel senso positivo del termine, assolutamente. Qua dalle nostre parti c'è questo principio, almeno nel nostro ambiente, magari non in tutti gli ambienti musicali, però tra di noi, cioè nell'ambito dei gruppi, c'è questa cosa di suonare, di scambiarsi, sì, di aiutarsi, certo. Di partecipare ai dischi degli altri, questa è una cosa molto bella, molto interessante. Adesso parliamo di Debbie Walton. Come l'avete conosciuta e perché l'avete giustamente fatta cantare un pezzo molto bello che poi abbiamo scelto e sentire? Allora, Debbie è una delle nostre migliori amiche texane, abita a Marble Falls, che è il paese dove siamo stati residenti durante il tour, e l'abbiamo conosciuta qualche anno fa quando è venuta in Italia per il suo primo tour, a cui hanno partecipato French e Stefano. Al basso invece c'era un altro nostro grandissimo amico, Donny Price, musicista eccellente, che ha suonato anche con Willie Nelson, insomma. E quindi l'abbiamo conosciuta di persona, credo che sia 3 o 4 anni fa, sì, ecco. e quando è ritornata per il suo secondo tour in Italia ha cantato, era proprio l'anno scorso, e ha cantato questa canzone. Da qui poi è nata una collaborazione ancora più intensa, visto che quest'anno, cioè quest'estate, la scorsa estate a luglio, Cemaco ha accompagnato proprio Debbie Walton in un tour in Italia per 2 settimane circa. E in quell'occasione il nostro amico Donny Price ha suonato la chitarra e suona benissimo la chitarra, a differenza mia che non saprei proprio suonare. Allora, visto che le cose stavano così, io ho continuato a suonare il basso e lui è passato la chitarra facendo un figurone, tra l'altro. Io abbiamo scelto questo pezzo così melodico, ma così bello, così intenso, così pieno di un certo feeling. E poi la voce di Debbie dà, non so come giudicarla, trasporta, secondo me, non so se sei d'accordo, trasporta quando l'ascolti. Sì, sì, è una voce dolce e ruvida nello stesso momento, è molto calda e appassionata. Io quando la sento nelle registrazioni me la immagino, perché è proprio la sua espressione, non so come dirti, guarda, trasporta, come sì, dici esattamente. Tu. Il pezzo è molto, strutturalmente è molto semplice, sì, esattamente. Abbiamo suonato poco proprio per lasciare tanto spazio alla sua alla voce. Voce. E difatti sì, tutte le note sembrano essere intorno alla voce di Debbie, volutamente sì, intorno. Sì, c'è un pochettino di chitarra acustica, un pochettino di ukulele e un pochettino di basso e basta, il resto lo fa la voce di Debbie. La sentiamo adesso, ok. The air is wet and friendly tonight in an old ghost town. Four walls, whiskey, and the temperature's high. We'll bring the big moon down. Mad dogs and pirates creep slow in the dark, trying to make no noise. You came and put a hole in my heart. No words, no sound, no voice. But tonight, let it burn wild. Oh, tonight, let it burn wild. Key and just follow my car. No destination but a road and motel. And tears and pain and a heart with a scar, with no story to tell. Night is falling and we'll hide every face that our love will spring. I need your kiss and warm embrace, you sweet little thing. But tonight, let it burn wild. Oh, tonight, let it burn wild. Like a fire that burns in the dark, like a candle that glows with no spark, like a fire on the skin that leaves its mark. Thank you. Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Mi sa che hai proprio ragione, San Roberto. Certo che se lei voleva emozionare ci è riuscita perfettamente con questa canzone. E io, guarda, infatti, quando tu mi parlavi di Willie Nelson un po' anzi, sì, ha cantato un po' nel suo stile anche in questa canzone. Sì, sì, sì. D'altra parte abitano a pochi chilometri di distanza. Willie Nelson è uno dei miei cantanti preferiti. Quindi il country si chiama Willie Nelson, insomma. Infatti. Comunque questo pezzo, anche dopo tante volte che lo ascolto, lo riascolto, continua a emozionarmi. Io sono felice di aver partecipato e contribuito a questo progetto, perché arricchisce molto, mi ha arricchito molto sia come musicista che come persona. Quindi. E ci ha emozionato anche noi, io, Alberto Prisco, che è il nostro curatore, D'Agostino, che abbiamo scelto Let It Burn Wild, perché è bello, è un pezzo che, come giustamente tu hai detto, anche se si risente per un po' di tempo, ha sempre un qualcosa in più, si sente sempre volentieri, e quello è importante. Vuol dire che il pezzo è rimasto, vuol dire che il pezzo è ben strutturato, vuol dire che il pezzo rimane, secondo me, anche a distanza di tempo, quello è fondamentale. Vi ringrazio da parte di tutto il gruppo. Tra l'altro volevo dire poi anche una cosa un po' sul discorso del CD, sì, di questa struttura. Sì, sì, possiamo, sì, diciamo, tuo sito dove si può trovare, eccetera, eccetera. No, ma io volevo dire ancora sulla realizzazione, okay. Cioè, questa struttura, questa scelta, sì, di tanti cantanti era motivata appunto dal fatto che si trattava di un sogno nel cassetto e di un progetto discografico, che poi si è trasformato in un progetto dal vivo, ovviamente, grazie a Marcello. Però a me piace questo disco. Anche a noi. Lo so, fa ridere, però a me piace perché io lo considero un po' una colonna sonora di un viaggio. E mi ricorda molto, con le dovute proporzioni, non vorrei apparire presuntuoso, lo immagino come la colonna sonora di un ipotetico e mai realizzato Easy Rider 2. Ah, capito. Un viaggio, no, attraverso gli States, così. Questa è l'impressione che dà a me. Io lo volevo dire, ci tenevo, ecco. Certo, hai fatto benissimo. Un viaggio portato dalle onde musicali, dalle onde della musica libera, free al 100%. Sì, questo, sì, è importante sottolinearlo. A proposito, dove lo possiamo trovare il disco, Roberto? Allora, è distribuito da IRD, quindi si trova un po' nei punti, nei negozi, si dovrebbe trovare o si può ordinare facilmente, perché il distributore è uno dei più grandi, sì, in Italia. Certo. Se no, attraverso il sito www.cemaco.com, Cemaco col CH all'inizio e la, certo, K in fondo, c'è il link al negozio online, che è quello gestito dall'etichetta discografica, oppure si trova anche su iTunes se uno vuole privarsi del piacere di toccare la carta, il digipack. Ecco, il perché è fatto molto bene il disco, dal punto di vista proprio visivo, è fatto molto bene, con una certa classe, grande classe. Agostino lo sta guardando in questo momento, penso che sia d'accordo anche lui. Sì, non questo. So quale sia Roberto dei tre. È quello alto. quello alto, ma con i capelli lunghi? Sì, quello che scambiano sempre per Frank Zappa. Sì, ecco, infatti. Beh, mica male come scambio, Roberto. Insomma, più troppo, direi. Assolutamente. E prossimi concerti, Roberto? Allora, in questo momento siamo un pochettino fermi perché stiamo studiando un po' in sala gli sviluppi del progetto, cioè i possibili sviluppi. Marcello in questo momento è impegnato in un progetto solista che ha sempre portato avanti, ovviamente che porta avanti da diversi anni, e proprio in questi giorni esce il suo ultimo disco solista, e quindi diciamo siamo un po' fermi, abbiamo delle date a Milano, abbiamo delle date già programmate in Liguria, a Zoagli, però nel brevissimo, diciamo che prima di Natale siamo fermi. Riprendiamo intorno a metà gennaio. Va bene, Roberto, noi ti ringraziamo di aver partecipato, di aver dato la tua disponibilità, che fate questa chiacchierata questa sera, insomma. Io ringrazio voi perché è stato un piacere enorme e veramente vi prometto di portare tutta la band a cantare, a suonare lì da voi. Guarda che ti hanno sentito tutti, esattamente, viene registrato, Roberto, hanno sentito tutti. Farò di tutto, assolutamente. Abbiamo deciso di concludere con All Things Must Pass, perché questo capolavoro triplo in album una volta di George Harrison, un pezzo difficile, un pezzo drammatico e gioioso nello stesso tempo. L'hai già detto tu. Ecco, perfetto. Ma allora, prima di tutto, perché George Harrison è un artista di cui abbiamo una stima enorme come compositore, come cantante, come chitarrista, come musicista. E allora, c'è una piccola storia legata alla scelta di questo brano, che ha scelto French, perché qualche mese prima di iniziare le registrazioni è mancato un caro amico mio di Stefano, un chitarrista jazz molto bravo, con cui abbiamo suonato e condiviso tantissimi anni, e purtroppo ci ha lasciati a 40 anni. E French ha pensato in questo disco un pezzo per lui, ma non l'abbiamo dedicato poi esplicitamente, è una cosa che è nata così. Mm-hmm. E siccome so che conoscete il testo, certo. Capite che la vita va avanti. La vita va avanti. Va bene, Roberto, ti ringraziamo ancora. Buon proseguimento all'ascolto, se ci ascolterai ancora. Assolutamente. E in bocca al lupo per la vostra musica, ovviamente. Grazie Roberto, grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao Roberto. All Things Must Pass. Sunrise doesn't last all morning. Doesn't last all day. Since my love is up and has left you with no warning, it's not always going to be this way. All things must pass. All things must pass. So doesn't last all evening. Mine can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always going to be this way. Darkness Thank you.